Crossover. Note senza confini. Un programma di e con Paolo Travagnin. Carissimi amici di Crossover, Note senza confini, un grandioso Aleger dal vostro Paolo Travagnin e benvenuti nel nostro contenitore di talenti sommersi, nel contenitore che dà voce senza confini, senza pregiudizi alle vostre opere. Infatti avete sentito una pletora di generi diversi nella nostra trasmissione, ma assolutamente di qualità e selezionati. Per entrare a far parte del nostro circuito non dovete far altro che contattarci ai contatti che vi darò durante la trasmissione. Via, andiamo senza indugio ai primi ascolti. Eccoli. Thank you.

L'ascolto di Crossover, note senza confini, al microfono Paolo Tremagnin, in regia Marco Di Battista. Contattateci per essere presenti sull'etere. Paolo Traonin ai microfoni di Crossover, note senza confini. Per gli assidui frequentatori del web, il contatto giusto è music@vatiradio.va, oppure potete contattarci al numero verde 800 208 802 per dar voce alla vostra arte. Crossover. Sarve de salimba, dei ayumeo, quinteo. Sarve de salimba, dei ayumeo. Crossover, da voce alla tua arte. Puoi essere anche tu il protagonista dell'etere inviando le tue proposte. Visita il sito www.icebergnews.it per i contatti. Entrerai a far parte di un grande progetto in continua espansione, il progetto Iceberg News, parole, suoni, immagini dell'arte sommersa. Vi aspetto. Mm-hmm. Ed eccoci ai saluti finali. Anche per oggi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Al microfono Paolo Travagnin, in regia Marco Di Battista, e spero ancora una volta di aver stimolato la vostra curiosità. Insomma, contattateci per essere presenti e per essere così ipoteticamente nostri partner in questo progetto di diffusione dell'arte sommersa italiana. Un mostruoso Aleger dal vostro Paolo Travagnin.